Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 20 di luglio, vi parla Daniele Biacchesi, Italia in controluce. Sono due edizioni quotidiane che vi raccontano l'Italia. Oggi parliamo di un prete che ha scelto di dedicare la sua vita alla lotta contro le mafie. Paola Ceretta intervista Don Ciotti di Libera per Italia in controluce. Lottare contro la mafia significa lottare per la democrazia. Che cos'è quindi la mafia? Quando parliamo di mafia è un crimine organizzato che per raggiungere i propri obiettivi, i propri affari, si avvale di parti del corpo sociale, di professionisti e certamente della complicità di segmenti della politica. Se no parliamo di crimine organizzato. La mafia è quella cosa lì e quindi noi dobbiamo fare in modo di tirare fuori le nostre unghie per fare la nostra parte come singoli cittadini, per quello che ci riguarda, che la voglia comincia dal conoscere, dall'esserci, dall'organizzarci, il giusto sostegno alla magistratura, alle forze di polizia, che loro fanno la loro parte. E poi dobbiamo chiedere le politiche sociali, gli interventi culturali, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. Cosa sono le illusioni perniciose? Beh, sono le parole di Paolo Borsellino, che ha pronunciato nel momento di successo del contrasto a Cosa Nostra, svolta storica nel nostro paese, e in quel momento lui parlò di non farsi delle grandi illusioni, ma che bisognava tenere alta la testa, dare continuità, coerenza, credibilità all'azione di contrasto. Fu un profeta, perché ci fu poi un allentamento di attenzione che porterà tra l'altro alla sua uccisione anni dopo. E quindi è un invito, io mi sono permesso di citarlo, in un momento come questo, dove la magistratura ci consegna tutti i giorni arresti latitanti, delle grandi operazioni, grande lavoro delle forze di polizia, di alcuni segmenti delle istituzioni, in un momento come questo vorrei che non calasse la tensione di fronte alla capacità, come abbiamo visto l'ultimo rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, dalla grande capacità di rigenerarsi e di trovare i modi di penetrare dentro le fessure del sistema nel nord, ma non solo nel nord del nostro paese. Quali sono le nuove strategie con cui le mafie hanno ricominciato a muoversi? Noi abbiamo un osservatorio, perché Libera è sul territorio nazionale, ci sono associazioni, gruppi, movimenti, e quindi siamo nei territori dove respiri i volti, le storie anche delle persone che sono in quei circuiti. Bene o male nei territori si sente, si percepisce, si sa, c'è una capacità di rigenerarsi, quindi arrestati magari dei grandi capi, delle grandi figure molto importanti, ma ci sono le nuove leve, i nuovi reclutamenti delle persone e poi nuove strategie internazionali per fare gli affari. E come abbiamo sentito, mettere in evidenza che qui al nord non era solo più fare affari, ma anche controllo del territorio, il sistema che viene usato nelle terre d'origine dell'organizzazione criminale mafiosa. Perché la Costituzione è il primo testo antimafia? Perché ci sono le regole dell'essere cittadino, noi ci sono veramente i paletti del nostro, i diritti e i doveri, non c'è legalità senza eguaglianza, non dimentichiamolo. Quell'articolo 3 della Costituzione che diventa importante e fondamentale, ma anche il primo articolo della Costituzione che dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma anche l'articolo 4 che dice che noi come cittadini siamo chiamati a portare il nostro contributo per il bene spirituale e materiale del Paese. La Costituzione deve diventare cultura e costume, è il primo testo antimafia, perché lì si trovano proprio i paletti, i diritti e i doveri che noi dobbiamo mettere in atto. E quindi sottolinea l'importanza del lavoro, della magistratura, del ruolo del sindacato, della famiglia, il ruolo della scuola. Allora, la lotta alla mafia vuol dire politica sociale, vuol dire politica per la famiglia, vuol dire una società che non si preoccupa di giovani ma se ne occupa realmente, vuol dire lavoro. Abbiamo toccato una percentuale di giovani senza lavoro che è impressionante, e quindi ti trovi nei territori veramente in momenti di fatica, di smarrimento. Chiaro che non voglio semplificare, ma questo è un atto su cui riflettere. Questa è una società che si sta impoverendo, che sta mortificando il mondo dei giovani, che hanno una voglia di fare, e noi lo tocchiamo concretamente con mano. Lei sostiene che l'impoverimento della morale pubblica apre un varco alle mafie. L'etica, cioè l'impoverimento della moralità pubblica, e che ha un ruolo e una responsabilità pubblica, ha due istanze etiche. Un'istanza etica individuale, me la vedo con la mia coscienza, ma se hai un ruolo pubblico hai un'istanza etica anche comunitaria, sociale, devi rendere conto alla società per il ruolo pubblico che hai. Ma io mi preoccupo di più dal punto di vista della ricaduta, dei riflessi psicologici sui più giovani, non solo sui giovani, perché i cattivi maestri, cioè la ricaduta è l'imitazione, la sfiducia nelle istituzioni, che le cose non cambieranno mai, eccetera, o la ribellione. Libera cerca di intercettare queste fatiche fatiche e trasformare un po' le fatiche in speranza. Che cos'è la speranza? Beh, Sant'Agostino che diceva che la speranza ha due bei figli, la rabbia, vedere come vanno le cose, ma anche il coraggio di vedere come potrebbero andare. Coraggio vuol dire metterci cuore, vuol dire metterci gioco, vuol dire non dimenticare la resistenza di ieri per la libertà del nostro paese, ma che dobbiamo tirare fuori anche delle resistenze di oggi per un cambiamento, perché abbiamo tante situazioni di impoverimento materiale, impoverimento sociale, impoverimento etico, impoverimento culturale, ma anche impoverimento delle speranze. C'è tanta gente che è disorientata, che ha perso il lavoro, che ha la caccia di punti di riferimento. Noi abbiamo visto che si chiudono dei servizi in Italia perché c'è questi tagli, no? Dimenticando che il sociale non è una sigla, il sociale sono volti, storie, e la libertà e la dignità di persone, sono persone il sociale. E i fondi per il sociale nel 2008 erano 2 miliardi e 500 milioni, adesso sono passati 379 milioni. Che ruolo ha l'informazione nella sfida culturale alla mafia? È fondamentale, non a caso che Libero ha creato Libera Informazione, ha cercato di mettere tante teste, tanti pensieri, tanti punti di riferimento per un'informazione che scende in profondità, che non stia sempre in superficie. Un sapere, bisogna consegnare degli strumenti che la gente possa veramente scendere in quella profondità. Oggi è tutto generalizzato, tutto semplificato, c'è un sapere di seconda mano per sentito dire. Infine Don Ciotti lancia un messaggio. Di tirare fuori le unghie tutti insieme, io credo che il cambiamento bisogna veramente di ciascuno di noi, e per me è una grande gioia vedere che migliaia e migliaia di giovani, associazioni e gruppi si sono messi insieme. C'è un'Italia bella, cosciente dei propri limiti ma anche della propria forza. Allora io credo che chi ci ascolta ce lo diciamo proprio con grande affetto, ma non basta indignarsi, è stata una moda. Io credo che bisogna provare disgusto di fronte a certi scene, immagini, semplificazioni. Per me è una ferita, perché da 45 anni col gruppo Abele io vivo poi con Libera la strada, il dormitorio, il dropping, il centro crisi, chi si sbatte veramente, chi è povero, chi non ha da mangiare, chi è nella malattia. Questa è la nostra realtà che ci accompagna, e quando vedi che vengono penalizzati proprio le fasce più deboli, io provo disgusto. La prima edizione Italia in Controluce, cercateci su Facebook, la pagina e il gruppo, Twitter, il blog su radio24.it, la mail controluce radio24.it. Torniamo oggi alle 13:15 su Radio 24.